E so che è così, so che passano gli oceani attorno a casa mia. E so che è così, che forse doveva andare questo tempo per noi, e forse è così.